ciò che vuoi. La mente è troppo piena delle cose che non servono a nessuno, tantomeno a te. Corri contro il tempo, non ti fermi mai. Scordi il passato e non sai dove vai. E pensi al presente come cosa che ostacola il futuro che ancora non c'è. Pensare solo a sé è troppo facile, il sano altruismo è impossibile. Le stringhe temporali ti avvolgono, ti invecchi più in fretta del previsto e i sogni in frantumi sono più di te. Agita quella molla che hai dentro a te. Forse troppo fragile, piangi per le cose molto piccole, vedi cose che tu non hai visto mai, chiedi come tutto ciò possibile. I sogni si trasformano in incubi, il corpo si ribella più che mai. Tu non hai amato mai il rischio, no, e il rimpianto non ti serve a niente, sai. L'ignoto ti aspetta con intensità, sei stanco, hai paura, chissà come andrà. Il vento del destino è implacabile, l'esistenza quasi improbabile. L'ultimo respiro al creato, anche se non ci volevi credere, adesso quasi quasi ti fa comodo.